9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi viaggeremo, galleggeremo per così dire tra i temi economici che sono al centro naturalmente di questa fase politica, come è normale ed è giusto che sia in questa fase molto difficile per il paese, non manchiamo mai di sottolinearlo. E ci soffermeremo però in particolare, e su questo vi voglio sentire, mi interessa la vostra opinione, ce ne stanno già arrivando sulla nostra pagina Facebook, adesso ve ne leggerò qualcuna perché il dibattito si fa interessante, trovo posizioni diverse e tutte interessanti. Quello sul quale ci vogliamo soffermare è il rapporto con l'Europa. Europa dalla quale evidentemente non possiamo prescindere nelle nostre scelte di politica economica, sia che si decida di andare in accordo, in parallelo con l'Europa, sia che si decida di rompere con l'Europa per certi aspetti, in particolare mi riferisco ai vincoli di bilancio. Abbiamo scelto questo tema centrale, anche se toccheremo ovviamente il tema dell'IMU, il tema del DEF, il documento di economia e finanza, che forse sarà sottoposto a revisione visto che c'è un nuovo governo e questo DEF è stato fatto dal precedente. Parleremo di questo perché poi alla fine la questione IMU, la questione del DEF dipendono ovviamente anche dall'Europa. Voglio iniziare proprio da qualche messaggio che ci è arrivato sulla nostra pagina Facebook. La domanda che ho deciso di farvi questa mattina è: i tedeschi, ma insomma, non avranno anche loro qualche ragione, no? Perché si sta facendo molto, anche molta retorica antitedesca. Tedeschi che adesso possono anche beneficiare, a testimonianza della supremazia europea, di due squadre in finale di Champions League. Ci scrive qualcuno: quando non c'era l'austerità non è che ci fosse crescita, anche questa non è male. Stefano Orlando ci scrive: certo che hanno le loro ragioni come noi abbiamo le nostre, il senso dell'unione dovrebbe essere ascoltare le ragioni di tutti e poi fare una media, insomma trovare un punto di compromesso. Paolo: non riusciamo a tagliare nulla in Italia, andiamo a piangere in Europa, è giusto allentare in Europa tanto quanto tagliare le spese correnti in Italia. Vincenzo: lo spread con la Germania è tutto politico, culturale, noi avevamo la DC, loro la CDU, noi nominiamo nei posti chiave i portaborse, loro quando dovettero riunificare le industrie delle Germanie chiamarono Detlev Karsten Rohwedder, il più illustre economista socialdemocratico. Claudio: l'austerità sta portando al suicidio l'Eurozona, non a caso adesso anche i santoni di Bruxelles si sono accorti dei disastri a cui stiamo andando incontro. Questo è parte del nostro tema. Saluto i nostri ospiti, molti questa mattina, e quindi li pregherò di essere compatti. Pierpaolo Baretta, vicepresidente della Commissione Speciale per il Controllo degli Atti di Governo, al momento unica commissione in vita, anche se tra poco arriveranno anche le commissioni normali, quelle ordinarie, e tra l'altro relatore al DEF del Partito Democratico. Buongiorno Baretta. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno al suo omologo del Movimento 5 Stelle, cioè vicepresidente della Commissione Speciale, Giorgio Sorial, buongiorno. Buongiorno a lei, colleghi. L'accento l'ho messo giusto sul cognome? È Sorial. Sorial, ok, quindi l'avevo messo sbagliato. Alberto Giorgetti, del PDL, ex sottosegretario all'economia, buongiorno Giorgetti. Buongiorno a voi, buongiorno. E Tobias Piller della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ci aiuterà ad avere il punto di vista tedesco, anche se vedo che in realtà i nostri ascoltatori sono, no, come hai sentito Tobias, in realtà qualche ragione ve la danno, insomma, no? Buongiorno. Allora, però, io voglio iniziare dal punto politico, che questa revisione dell'IMU che sembra, insomma, che è stata posta da Silvio Berlusconi come punto centrale prima ancora che si votasse la fiducia al governo Letta nell'aula del Senato, ha detto: la fiducia la togliamo se non togliete l'IMU sulla prima casa. Baretta, si può trovare un qualche punto di mediazione su questa cosa qua? Avete qualche idea di che cosa si sta sviluppando? Perché poi, tra l'altro, Letta ha demandato la cosa anche al Parlamento, mi sembra di aver capito. Ma sì, penso che un punto di mediazione bisogna trovarlo. Questo è un governo di coalizione, quindi bisogna che noi teniamo conto delle ragioni del PDL e che il PDL tenga conto delle ragioni nostre. Letta ha detto: sospendiamo intanto la rata di giugno in maniera da dare un segnale, dopodiché rifacciamo la riforma, rimodifichiamo l'attuale normativa e quindi credo che in questo ambito ci sia la possibilità di trovare una soluzione. Credo che il problema vero sarà la restituzione, non tanto il 2013 e il futuro, perché le differenze tra il PD e il PDL sulla questione dell'IMU, se lasciamo perdere gli aspetti ideologici, le differenze concrete ci sono, ma sono gestibili. Noi abbiamo proposto di arrivare a 500 euro di esenzione, che vuol dire togliere l'IMU a quasi il 90% delle case, sicuramente delle prime case. Il PDL di toglierla tutta, in quel 10% di differenza ci sta anche i redditi alti, quindi penso che una valutazione di merito possa essere fatta e una soluzione trovata. Chiedo conferma a Giorgetti a questo punto, brevemente, così poi andiamo sul cuore dei problemi. Giorgetti. Ma la conferma della volontà di trovare una soluzione indubbiamente c'è. Io sarei un po' meno flessibile di quanto ha esposto Beretta, che mi pare è lì un po' il nodo di questa situazione. Siamo d'accordo sul fatto che sostanzialmente l'IMU va rivista pesantemente. Noi siamo dell'idea però che l'eventuale sospensione che ha preannunciato Letta sia finalizzata alla progressiva, diciamo così, rivisitazione dell'imposta, ma con l'obiettivo dell'eliminazione, quindi eliminazione sulla prima casa, partendo da questa, e poi ovviamente lavorando per cercare di estendere. Maretta ha fatto un esempio molto concreto, noi capiamo ovviamente qual è il valore dei numeri attorno a questa vicenda, tant'è vero che abbiamo proposto diverse forme di copertura tecnica e riteniamo che una soluzione si possa e si debba trovare, però c'è una valutazione politica, su questo chiudo. Noi abbiamo detto con chiarezza che questo era il vero, mi permetto di dire, quasi unico punto su cui noi eravamo assolutamente determinati per la nostra partecipazione al governo. Quindi Letta sa, come sanno gli amici del Partito Democratico, che comunque per tenere in piedi un governo di larghe intese è fondamentale questo passaggio. Sugli altri ovviamente sono stati espressi complessivamente 8 punti, però questo era il punto, chiamiamolo così, di rimente. Ecco, quindi disponibili a trattare, però brevemente Giorgetti, dirimente la restituzione oppure no? Perché questo non ho capito nel suo discorso, è la restituzione che dirimente. Credo che noi dobbiamo partire immediatamente dalla vicenda del 2013 e noi abbiamo inserito anche la richiesta di restituzione del 2012, che è un'operazione che vale diversi miliardi. Però su quella si può trattare? Vedremo nelle prossime ore. Al momento noi aspettiamo una proposta convincente da parte ovviamente del Presidente Letta. Per chiudere il giro politico voglio sentire anche Sorial, perché sull'IMU mi sembra che sia già, la questione dell'IMU sulla prima casa mi sembra sia già un punto sul quale si può trovare una convergenza anche con voi, perché su questo anche in campagna elettorale avete fatto una battaglia abbastanza netta, soprattutto sull'IMU sulla prima casa. Assolutamente sì, perché l'IMU effettivamente non è altro che il peggioramento dell'ICI, quindi la tassa introdotta nel 1993 per sovvenzionare i comuni. È una tassa che riteniamo che sia completamente ingiusta e soprattutto in merito proprio alla prima casa è una tassa che deve essere assolutamente abolita. E proprio in tal senso ascoltavo i colleghi in merito alle ragioni del PDL, le ragioni del PD e trovare una mediazione. Noi come ragioni cerchiamo sempre di tenere le ragioni dei cittadini ed effettivamente in questo momento, in questo periodo, è una tassa che è assolutamente da abolire. Poi eventualmente si può rimodulare sulle seconde, terze, quarte case, visto che c'è comunque parte della popolazione che non possiede solo la prima casa. Però sulla prima casa, che è il tetto dove di solito tutti viviamo, è inconcepibile avere una tassa del genere che poi appunto non è altro che il peggioramento di un percorso che è stato iniziato nel 93 con l'ICI. Per quanto riguarda per l'appunto la prima tranche, quindi per quanto riguarda i 4 miliardi famosi di IMU per la prima casa, abbiamo già proposto delle coperture finanziarie tecniche, quindi c'è già la possibilità dal nostro punto di vista di agire in maniera abbastanza decisa e immediata, soprattutto per riuscire a togliere subito l'IMU in questa tranche nel 2013, insomma, anche se poi bisogna dire che effettivamente in quello che è il libro dei sogni che è stato avanzato lunedì dal presidente del Consiglio Letta, ci sarà eventualmente da capire poi tutte le altre coperture finanziarie, quindi fare anche un discorso in toto e capire tutte le varie riforme, dove si vorranno andare a reperire i soldi, dove si vorranno reperire le coperture. E certo, perché il punto è proprio questo, e là veniamo al nodo che si diceva, il nodo dell'Europa. Non a caso, questa ieri sera Herman Van Rompuy, questa mattina Barroso, in conferenza stampa con Letta, hanno ricordato ancora una volta che la questione dei saldi finanziari è centrale. E qua veniamo alla questione, alla domanda che vi abbiamo posto, insomma, questa mattina, perché come sappiamo l'attenzione ai saldi così rigida e così forte, che ha condotto ad una forte protesta in Italia, anche esplicitata dal voto, e che sta creando qualche problema anche in altri paesi d'Europa, la Francia su tutti, ma oggi anche il premier slovacco, la Slovacchia dice, insomma, che ci vuole una revisione. Oggi in un'intervista al Financial Times anche il presidente irlandese, quindi insomma, diciamo, c'è un movimento all'interno dell'Europa che sembra schierarsi in una sorta di movimento antitedesco. Tobias Piller, però, come hai visto i messaggi su Facebook e come hai sentito poco fa dei nostri ascoltatori, da questo punto di vista sembrano darvi, consentimi di dir così, anche se sei un collega, un giornalista, di darvi tutte le ragioni che avete. Ci dici se c'è, secondo te, una qualche possibilità, anche prima delle elezioni tedesche, che sappiamo essere uno snodo fondamentale, se c'è qualche possibilità di scavare intorno a queste questioni, insomma, liberare risorse per la crescita, magari con un minimo di attenzione in meno ai saldi, o se Merkel farà, insomma, terrà il pugno duro? Ma il punto mi sembra un po' troppo semplificato, dire voi tedeschi fate i cani da guardia dei saldi di bilancio dell'Italia e ci spremete tutte queste cose. Partiamo un po' dall'inizio. All'inizio si è fatto un accordo su un'unione monetaria che diceva a ognuno guarda bene alle proprie finanze e le tiene in ordine, e nessun altro deve dare garanzie o aiuti ad altri paesi. Così nessuno deve dire aiuto, aiuto, datemi dei soldi, altrimenti la vostra moneta salterà per aria. È proprio questo che è stato fatto dopo. E figuratevi che i tedeschi sono stati molto entusiasti di questo. Poi era stato detto all'inizio che questa moneta sarà così stabile come l'euro, stabile come il marco, e la banca centrale sarà del tutto indipendente. E cosa è stato fatto dopo? È stato finanziato una parte del debito italiano comprando titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale Europea. E poi anche adesso troviamo dei politici italiani che dicono bisogna inondare ancora di più questo mercato con soldi, così per fare così dell'euro quello che era la lira degli anni 70, dico io. Così ancora immaginatevi la grande così gioia di questi tedeschi. Dopo si sono fatti anche delle correzioni di questi primi trattati. Prima hanno allargato un pochino le regole su richiesta di Germania e Francia, ma con grande tifo dell'Italia, già inizio anni 2000. Poi adesso La Merkel è venuta incontro all'Italia, alla Grecia, ad altri paesi, dicendo un pochino di garanzia li diamo, accetteremo fino a un certo punto che la banca centrale aiuti, ma quello certamente quando si fa solo quando questi paesi coinvolti non vanno avanti come prima, ma cambiano un pochino il loro modo. Adesso un'altra volta si dice, ma quello che abbiamo promesso solo 2 anni fa non vale più, bisogna fare un'altra trattativa, buttiamo questo. Ma io dico, come tanti tedeschi, ma si può disdire questi vecchi accordi, ma non si può dire teniamoci le garanzie e teniamoci l'aiuto della Banca Centrale Europea, ma solo questi nostri impegni li lasciamo perdere. Questo certamente non è una bella figura di fronte a quelli elettori tedeschi, e che adesso si accingono a votare dei partiti anti-euro. Eh sì, perché c'è anche questo, c'è la nascita di partiti anti-euro anche in Germania. Prima di andare ad una pausa e poi a iniziare a sentire gli ascoltatori, voglio su quello che ci ha detto Piller l'opinione di Sorial, perché devo dire la verità, quelli che sono stati più duri in campagna elettorale, no, contro questo atteggiamento tedesco e contro questo atteggiamento dell'Europa in genere, siete stati esattamente voi. Sorial. Esatto, confermo la nostra posizione, merito proprio all'Europa, nel senso che stiamo vedendo anche Letta andare, sta facendo questo tour, questo giro, comunque sia, questi incontri presso le varie città, e quindi andando a incontrare comunque sia i vari capi di Stato, anche la Merkel, e c'è un problema fondamentale. Noi stiamo andando ma non stiamo ridiscutendo che effettivamente abbiamo bisogno in un qualche modo di andare a ridefinire quella che è la nostra richiesta di mantenimento di deficit PIL sotto il 3%. Questo per una serie di motivi. Partiamo dal presupposto che la manovra dei 40 miliardi, quindi del decreto 35/2013, già secondo alcune stime ci porterebbe al 2,9%, quindi molto vicini alla soglia. Parliamolo, dico per chiarezza, la interrompo, Sorial. Parliamolo, dico per chiarezza, del decreto sui debiti della pubblica amministrazione. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, Giorgio Sorial del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Speciale, stava concludendo il suo ragionamento anche in rapporto al decreto sui debiti della pubblica amministrazione, che, lo ricordiamo, è stato rimandato, insomma, al momento nel quale verrà, da quel che ho capito, anche rivisto il DEF. Insomma, il quadro dei lavori parlamentari non è chiarissimo. Di certo doveva arrivare in aula il 6 maggio, in aula il 6 maggio non ci arriverà, il decreto scade il 7 giugno, lo ricordiamo, chissà, magari metteremo un conto alla rovescia anche su questo. Sorial, prego. Guardi, sulle tempistiche purtroppo siamo in una completa riordine di tutte le tempistiche, perché effettivamente l'abbiamo ripetuto anche noi, non sono stati rispettati alcuni termini per una serie di questioni di cui sicuramente non si è responsabili, e anche il DEF per l'appunto doveva essere presentato all'Europa entro il 30 aprile. Sicuramente il Presidente del Consiglio rientra dal suo giro, dai suoi incontri con i vari con i capi di governo, ci saprà dire se l'Europa accetterà comunque sia che il nostro DEF venga presentato con il ritardo che è presumibile, verrà presentato fra una settimana perlomeno, o fra qualche giorno, insomma. Comunque sia, ritornando sul 2,9%, quel famoso 2,9% che è stato in un qualche modo stimato, ci porta troppo a ridosso di quella soglia del 3%, quindi con tutta una serie di calcoli, di errori marginali, di stime, c'è una grande possibilità che si sfori questo 3%, e questo non ci permetterebbe di uscire dalla procedura per deficit possibile, perché per l'appunto, come ricordiamo, il disavanzo nel 2013 è stato del 3%. Quindi già lì abbiamo un problema fondamentale, ma il problema non sono i numeri, il problema è proprio una questione di logica, una questione per l'appunto di metodo e di trattati. In questo momento qua ci ritroviamo in una condizione per cui abbiamo da fare delle riforme strutturali di un certo tipo e che comunque richiedono una copertura finanziaria sostanziosa. Non possiamo continuare a pensare di dare a certi vincoli imposti dall'Europa che ci mettono il cappio al collo. Lo abbiamo sempre detto, lo stiamo dicendo ormai da un bel po' di tempo. Sembrerebbe. Voi siete. Sorial, per essere netti, mi scusi, voi siete per una rottura con Bruxelles da questo lato? Noi siamo per una rottura profonda, ma non tanto con i rapporti con Bruxelles, ma perché per l'appunto tutti i movimenti che stanno nascendo con l'Europa e nell'Europa, nei vari stati, prevedono proprio che questo rapporto, il deficit PIL e quant'altro, debba essere in un qualche modo rivisto, proprio per la condizione economica in cui siamo. Ricordiamo anche solo anche tutti gli altri trattati che sono stati ratificati in questi mesi. L'anno scorso è stato ratificato il Fondo Salva Stati, in Portogallo alcuni articoli di questi trattati sono stati dichiarati incostituzionali. Il Fondo Monetario Internazionale qualche mese fa ha dichiarato che comunque sia ci sono effettivamente delle carenze dal punto di vista proprio dell'umanità, diciamo, comunque sia del fatto che questi trattati in qualche modo non siano leciti al 200% e non prevedono un chiaro sviluppo, ma si focalizzano su un mero principio contabile che in questo momento non aiuta nessun paese, ed è anche per questo che nei vari paesi europei sta nascendo una corrente di pensiero completamente differente in merito appunto al rapporto con l'Europa. È così anche la nostra, sta cambiando anche il modo di pensare in Italia, lo stiamo vedendo proprio all'interno dei lavori della commissione speciale. Però c'è da fare logicamente un passo, bisogna essere proattivi nel rapporto con l'Europa. Sì, una battaglia, ci vuole una battaglia politica. Baretta, mi sembra che da questo punto di vista progressivamente si stia arrivando ad una sorta di concordia tra le forze politiche, insomma, magari il Movimento 5 Stelle la dice in maniera un po' più energica, per così dire, ma in realtà, insomma, il fatto che con Bruxelles si debba iniziare a ragionare, se vogliamo anche in termini di rottura, ma rottura politica naturalmente, no? Cioè un confronto forte, tosto con quella che viene definita la tecnocrazia, insomma, e ragionare un po' più su manica larga sui numeri, mi sembra sia un punto che vi trova più o meno tutti d'accordo, no? Guardi, questa sensibilità non nasce in queste ore, diciamo che ormai è un anno che le forze politiche in Parlamento discutono, abbiamo fatto in Commissione Bilancio nel giugno dello scorso anno una risoluzione, peraltro citata dallo stesso Presidente Letta, a dimostrazione del fatto che c'è questa riflessione. Il punto sta in questi termini, che nostro amico tedesco dobbiamo dare una risposta, perché lui pone un tema che serio, e cioè lui dice: il vostro debito non può essere scaricato altrove. Io dico che ha ragione e che noi sbagliamo se non affrontiamo seriamente il fatto che abbiamo un debito pesante e che almeno finché non arriviamo a portarlo al 100%, oggi sotto il 100%, oggi siamo al 120 abbondante, questo rischiamo di non essere in parte credibili. Ma contemporaneamente voglio ricordare che noi abbiamo un avanzo di bilancio, noi le politiche di rigore le abbiamo fatte e hanno dato dei risultati, e se possiamo fare l'operazione che ha detto prima il collega di 5 Stelle sui pagamenti, arrivando a ridosso del margine del 3, è perché eravamo al 2,4, è perché eravamo sotto, e per il prossimo anno è previsto un avanzo di bilancio dello 0,4 positivo. Quindi attenzione, perché l'Italia è in un momento di passaggio delicato, ha un pesante debito che deve affrontare, che sta affrontando, e in questo senso le regole del fiscal compact ci sono, ma ha un problema di emergenza che consente di riuscire di affrontare meglio la situazione. Questo è il punto vero: se si nega che l'Italia sta facendo degli sforzi e li sta facendo, allora si sbaglia. In questo senso il negoziato con l'Europa, ecco la differenza di terminologia, non annulla il problema. Il negoziato con l'Europa deve essere un negoziato vero, serio, concreto, e l'Europa deve dire quali sono le proprie politiche, non le politiche per l'Italia, perché la politica esclusivamente dell'attenzione ai conti e non dell'espansione è sbagliata prima di tutto per l'Europa, e credo che tutto il fatto, non esistono isole felici, nemmeno la Germania è un'isola felice, no? E quindi questo è il punto, è la politica europea che ha calcato giustamente per un lungo periodo di tempo alla necessità del rigore, ma che ha esagerato perché è rimasta solo lì. Nessuno di noi dice no al rigore, ma il rigore non basta, ci vuole politiche espansive e le politiche espansive si fanno con allentamento di alcuni vincoli, che non significa affatto scialacquare. Sentiamo Claudio che ci chiama da Bergamo, buongiorno. Grazie a lei e ai suoi ospiti. Io un po' che continuo a dire, perché poi ascolto tutte le vostre trasmissioni e al pomeriggio mi arrabbio quando sento i mega sprechi galattici, cioè soldi dati a gogo, eccetera. Ma io dico, e non voglio essere tacciato di essere un comunista, però se hai una pensione non gli metti un tetto di 3-5 mila euro al mese, non ha senso sentire pensione di 30 mila euro al mese. Cioè, se tu praticamente senti ancora che un CNEL prende 20 milioni di euro all'anno, il presidente 2 milioni, il vicepresidente 1 milione, 62 consiglieri 2200 euro al mese, queste cose qua, e cioè, oppure il presidente dell'antitrust 300 mila euro con 4, dicasi 4 vice 196 mila euro all'anno, cioè tutte queste cose, basta leggersi i libri anche della Casta di Stella Rizzo o sentire qualche trasmissione al pomeriggio vostro di Radio 24, o ci si dà, e non deve però pure la Corte Costituzionale dire no, non si possono, i diritti acquisiti non si possono toccare, no signore, allora o si mette a posto la cosa e state zitti, o se no andiamo a casa tutti e non ha più senso neanche, cioè, votare. Lei dice questa roba i tedeschi l'hanno fatta, le riforme l'hanno fatte, e c'è cioè addirittura un partito che ne paga ancora oggi le conseguenze, mi riferisco all'SPD per aver fatto delle riforme dure, dei tagli duri in un momento difficile della storia tedesca, no? Tocca farlo anche a noi, questa è la sostanza. Certo, assolutamente, è vitale, perché sennò alla fine moriamo tutti. Cioè, se lei ha 5 figli, scherze, uno viene in Porsche in turbo, gli altri 4 muoiono di fame, cioè lei non è un buon padre. O a tutti quanti dalla panda, il prosciutto cotto, e io guardi, mi ripeto, non sono comunista, sono da tutt'altra sponda, assolutamente dall'altra parte. Capito, chiarissimo il suo discorso, insomma, qua... Voglio sentire Tobias Spiller, perché poi il ragionamento è anche questo, no? Il ragionamento che fanno i tedeschi in questo momento. Dicono, insomma, signori, noi quanto, 10-15 anni fa ormai le nostre riforme le abbiamo fatte, ci siamo tirati fuori dalle secche pagandone un prezzo, c'è un partito che ne ha pagato un prezzo politico forte, tra l'altro. Insomma, fatelo pure voi a costo dell'impopolarità. O no? È quello che c'è un'alternativa all'austerità, l'alternativa si chiama riforme economiche, perché il mio punto di partenza è quello che di tanti altri è che l'Europa è in difficoltà a causa della globalizzazione, e se non fa niente rischia il declino e comunque le casse dello Stato saranno sempre in difficoltà, perché se se ne va l'attività economica in altri paesi e se ne vanno i posti di lavoro, certamente si risente anche nello Stato. E l'alternativa, le riforme vuol dire fare qualcosa così che si riduca lo Stato, si faccia crescere l'economia e si faccia crescere l'occupazione. In Germania certamente qualcosa di forte è stato fatto, anche togliendo così dei soldi sociali, togliendo la tredicesima ai dipendenti pubblici, avendo 4 anni senza aumento delle pensioni, certamente facendo anche tutto così che un fannullone sia in un'azienda privata sia in un'azienda sia nel pubblico possa essere licenziato molto velocemente. Solo per fare degli esempi, anche non ci sono esodati, perché si dice anche ai 55 anni andate a trovare un lavoro, altrimenti vendete casa e vivete di questo, punto. E questo è un pochino duro, ma dall'altro al momento la Germania ha grande occupazione. Ma voglio un po' sfidare delle idee sottostanti a quello che viene detto dai politici in questa discussione. Prima c'è questa idea che bisogna far aumentare la spesa dello Stato per far crescere l'economia, ma questo aumento della spesa dello Stato non era sempre anche a rischio di sprechi, e non è fatto tutto quel debito dello Stato italiano di tutti questi aumenti della spesa dello Stato per presuntamente aumentare la crescita, che poi non è arrivata. E questo mi sembra un punto importante da discutere, perché forse bisogna ridurre il peso dello Stato, ma eventualmente è così che politici in tutto il mondo vogliono avere soldi tra le mani per spenderli, perché altrimenti sentono molto meno il loro peso. E lì in Germania siamo forse un pochino fortunati di aver avuto politici che hanno ridotto il peso dello Stato e hanno creato uno Stato che è più arbitro delle regole del gioco dell'economia, anziché un attore che sempre va a spendere e a sprecare. Grazie Tobias, adesso abbiamo una pausa e ti ringrazio, perché questa è l'altra questione importante, no? Perché abbiamo sentito nei discorsi tanto di Soria quanto di Baretta un'idea sottostante che insomma bisogna allentare i vincoli di bilancio, o quantomeno insomma trovare le risorse per far ripartire l'economia, con l'idea naturalmente che questa ripartenza dell'economia corrisponda necessariamente o quasi ad un aumento di spesa pubblica, insomma, ad una spesa pubblica per aumentare l'economia, per spingere l'economia, almeno nell'idea che ci siamo fatti sentendoli adesso. 9 in punto. Dunque abbiamo più o meno 7, 8 minuti, 9 minuti, qualcosa di questo genere, quindi prego a tutti di, una preghiera a tutti, di essere brevissimi. Iniziamo da Alberto Giorgetti del PDL, che non parla da un po'. Lo so, abbia pazienza, insomma, no? Allora, su questo tema, su questa questione, sull'allentamento dei vincoli di bilancio per rilanciare la crescita, in realtà, quando in realtà forse ci vorrebbe un po' più di lavoro sulla spesa pubblica, e anche su questo rapporto con l'Europa, le chiedo però appunto di essere abbastanza breve, se può. Interessanti, personalmente poco condivisibili del giornalista tedesco, ma io ritengo che oggi il tema sia fondamentalmente rivedere i meccanismi con cui noi abbiamo aderito a quella che è stata una scelta, io credo, importante, che va ribadita, quella di aderire all'Unione Monetaria, ma è evidente che quando si è fatto questo trattato non si sarebbe mai immaginato una crisi così pesante come quella che abbiamo dovuto affrontare ovviamente in questi ultimi anni, che è una crisi che coinvolge l'Europa. La Germania paga meno di altri, ma fra un po' pagherà anche la Germania, perché è assolutamente chiaro che nel momento in cui i mercati nazionali, in particolar modo quello italiano, non è più in grado di esercitare una domanda adeguata, va a pagare anche l'economia tedesca. Sono economie che in una logica di mercato comune sono evidentemente interconnesse. Quindi su alcuni temi io credo dobbiamo uscire dalla logica generalista, e faccio alcuni esempi. Quando noi parliamo di limiti relativo alla spesa delle finanze pubbliche, è concepibile ancora mantenere all'interno del percorso che riguarda l'indebitamento, così definito, ai sensi ovviamente dell'Europa, per esempio le risorse che sono depositate in cassa presso l'INAIL, parliamo di uno stock di diversi miliardi di euro che non possono essere toccate, che sono in cassa, perché viene considerato comunque in termini europei una spesa pubblica non produttiva, invece può essere e deve essere produttiva. Così come è possibile immaginare che gli avanzi dei comuni o delle province, di comuni virtuosi, non vengano utilizzati per investimento, spese di investimento, parliamo non di spesa pubblica aggiuntiva costruita quindi con necessità di coperture, ma di soldi che sono in cassa. La Cassa Depositi e Prestiti, che ha delle risorse ingentissime e che viene discussa a livello europeo se deve restare o meno all'interno del perimetro della cosiddetta pubblica amministrazione, sono tutti argomenti che possono determinare, se ben gestiti, con risorse che sono esistenti, uno shock positivo per l'economia. può determinare e dovrebbe determinare una crescita che credo sia un elemento di interesse strategico non solo per l'Italia ma evidentemente per tutti i paesi europei. Allora io su questo credo che ci sia oggi una chiusura eccessiva da parte ovviamente di chi sceglie una politica di rigore che va mantenuta, ma rigore così concepito, rigore che determina un effetto strangolamento. Pensare che l'Italia possa ridurre un debito così pesante senza avere dei margini di manovra almeno su queste leve, così come sulle leve della dismissione ovviamente dei beni o di alcune partecipazioni per ridurre in modo significativo il debito, evidentemente io credo che sia oggi una visione miope che rischia di in qualche modo determinare un freno anche agli altri paesi. Quindi credo che ormai il nodo stia lì, dove determiniamo effetti di liberazione di risorse, quali risorse vanno liberate, non quelle quindi generiche che devono essere recuperate poi con forme di copertura che vanno ulteriormente a colpire i cittadini, ma risorse che possono essere oggi utilizzabili, fresche e immediatamente produttive. La sfida sta lì, quindi un confronto nuovo che ha caratteristiche nuove che deve portare, io credo, tutti i paesi a riflettere su queste leve che sono di interesse comune proprio per evitare quel declino che teme evidentemente in prospettiva anche la Germania. Grazie Giorgetti, non è stato proprio brevissimo. Brevemente invece chiedo valutazione a quel che abbiamo detto, a quel che ha detto Piller e a come l'ho interpretato io, magari malamente, a Baretta e Soria. Iniziamo da Baretta. Ma guardi, non è vero che l'allentamento dei vincoli significa per forza spesa pubblica aggiuntiva. Faccio un esempio: la riduzione delle tasse su impresa e lavoro mette in moto oppure l'incentivo a un piano di occupazione giovanile non sono affatto, come dire, soldi pubblici come vengono pensati, ma mettono in moto anche risorse private. Inoltre, come ricordava Giorgetti, se facciamo un piano per il dissesto idrogeologico in Italia oppure per la manutenzione degli edifici, cosa che i comuni potrebbero fare se potessero allentare i loro vincoli, metteremo in moto un processo virtuoso che è quello di cui abbiamo bisogno. Aggiungo infine che la riforma delle pensioni italiana è stata fatta, è dolorosissima, pesante, quindi non partiamo dall'idea che siamo punto a zero, abbiamo molta strada da fare, ma insomma riconosciamo almeno gli sforzi che il nostro paese ha fatto, non esistono, credo, non credo sia giusto che ci si metta nella condizione nella quale ci sono coloro che hanno la perfezione in mano, perché non è così. La crisi colpisce tutti, colpirà anche la Germania se non risolviamo presto il problema. Brevissimamente, Sorial. Sarò molto breve ma abbastanza diretto, perché è una questione fondamentale e vorrei anche riprendere quello che è stato detto dal radioascoltatore, che è importantissimo, ma non l'abbiamo evidenziato abbastanza secondo me oggi in questa intervista, durante queste parole. Ci sono 100.000 pensioni d'oro che in questo momento valgono 13 miliardi e sono pensioni d'oro che possono arrivare anche ai famosi 32.000 euro al mese ad Amato. Allora, di cosa stiamo parlando? A dicembre 2012 queste pensioni d'oro sono state salvate. È passato un emendamento per cui le pensioni d'oro non sono state potute, non sono state portate a 6.000 euro nette al mese, e tra l'altro c'erano una serie di eccezioni per cui se cumulate con altri trattamenti pensionistici potevano arrivare a 10.000 euro. Quindi ancora io purtroppo mi scandalizzo ancora, mi indigno e poi mi arrabbio ancora un po', perché continuiamo a parlare che abbiamo questioni per cui dobbiamo trovare copertura finanziaria, poi 13 miliardi come quelli che sono riferiti a queste 100.000 pensioni non si toccano, ma si dovrebbero e si possono toccare immediatamente. Allora mi scandalizzo proprio perché continuiamo a parlare di tutto ciò e poi quando noi cominciamo a parlare di accordi, chiamateli come volete, intese, inciuci, quello che sono, tutti si scandalizzano perché usiamo termini forti o parliamo di inciuci. Signori miei, sono queste le intese, quelle che non ci permettono, per interessi di uno o interessi dell'altro, andare a toccare cose concrete, cose reali. 13 miliardi effettivamente ci potrebbero fare. Abbiamo capito, Soria, io un'ultima brevissima domanda per Baretta. Visto DEF, decreto sui debiti delle pubbliche amministrazioni, si rischia un ingorgo parlamentare a breve, secondo lei? No, perché lunedì facciamo il DEF in aula, oggi pomeriggio c'è l'audizione del ministro Saccomanni e la prossima settimana faremo anche il decreto sui pagamenti. Quindi io penso che entro una settimana liquidiamo queste due questioni principali e nel frattempo si avvia la vita ordinaria del Parlamento. Grazie a Pierpaolo Baretta, Giorgio Sorial, Tobias Piller, Alberto Giorgetti, e grazie ad Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Rosa, Eleonora e Sabrina al centralino. Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 60 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.